Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Venerdì sera abbiamo parlato dei nuovi risultati dell'osservatorio Smart Working del School of Management del Politecnico di Milano. Intanto, che cos'è uno smart worker? Lo ricordo, è una persona, un lavoratore che però ha la possibilità, grazie alle tecnologie odierne, per esempio di lavorare negli orari che più lo aggradano, che sono più compatibili con la sua vita privata, di lavorare anche fuori dal posto di lavoro, a casa, ma persino magari per 2 ore quando si trova in vacanza. Abbiamo anche dato dei dati economici ieri, perché per la prima volta l'osservatorio ha fatto anche questo tipo di stime. È venuto fuori che lo smart working potrebbe valere 37 miliardi per l'economia italiana, 27 di maggiore produttività e 10 di costi risparmiati dalle aziende. Allora oggi cerchiamo di capire se in Italia questo modello sta prendendo piede e insomma qual è il trend. Naturalmente ne parliamo con il responsabile dell'osservatorio smart working del Politecnico di Milano, il professor Mariano Corso, che è tornato a trovarci. Buonasera Mariano Corso. Buonasera dottor Melis. Dicevamo, grandi vantaggi potenziali, ma qual è la capacità di assorbimento da parte del mondo del lavoro italiano di questo modo nuovo e diverso di lavorare? Beh, purtroppo in Italia siamo decisamente indietro. Questo non ci stupisce, perché sui cambiamenti organizzativi siamo sempre rimasti un po' in retroguardia. L'Italia è particolarmente indietro sul telelavoro, quindi sulla possibilità di lavorare fuori sede. È uno degli ultimi paesi dei fanalini di coda in Europa, e mentre altri paesi stanno procedendo molto velocemente, l'Italia sembra ferma al palo. Un po' meglio va sulla flessibilità degli orari di lavoro, ma ahimè anche in questo caso continuiamo a essere indietro. Ecco, tra l'altro io approfitterei per fare una riflessione, perché poi naturalmente, come dire, noi italiani siamo sempre pronti per ottime ragioni ad attribuire alla politica le colpe di qualunque cosa. In effetti la politica non scherza da questo punto di vista, lo stiamo anche vedendo, ma però qui per esempio le aziende potrebbero loro fare molto di più. Assolutamente. Alla base di questo ritardo ci sono delle responsabilità delle imprese, quindi delle carenze culturali. Tenga conto che molto è legato anche al tessuto delle imprese italiane, certo. È fatto di piccole imprese, è fatto di settori tradizionali in cui c'è meno cultura. Ci potrebbe essere un grande vantaggio comunque, ma c'è meno cultura di utilizzare questi nuovi trend. Ecco, però si vede, a proposito di trend, muovendo, si vede un cambiamento in corso, no? Ecco, volevo proprio dirle questo. Abbiamo riscontrato in questo anno una buona risposta delle aziende. Ad esempio c'è un 8% in più di aziende che consentono ai propri dipendenti di telelavorare, quindi un 8% in un anno è... Non è male, è un trend netto, trend diciamo. Certo. Ecco, e voi alcune di queste imprese che si sono buttate, diciamo così, sul telelavoro li avete anche premiate, no? C'è un premio, si chiama lo Smart Working Awards, che avete assegnato settimana scorsa. Esattamente, noi ogni anno monitoriamo e poi premiamo quelle che sono le migliori iniziative in Italia. Quest'anno abbiamo premiato 2 aziende, abbiamo premiato Mars Italia e abbiamo premiato Tetra Pak. Abbiamo anche dato una speciale menzione a un progetto di Barilla. Che così magari si rifà un po', si rifà, esatto, un po', si fa un maquillage dopo le ultime sparate. Quindi sono 3 organizzazioni che a loro modo, seguendo il loro percorso, hanno interpretato, secondo noi, al meglio le grandi opportunità dello smart working. Ecco, che cos'è che hanno fatto? Utilizzo ad esempio come esempio Tetra Pak. L'azienda Tetra Pak in Italia ha adottato un modello dal punto di vista sia dell'organizzazione degli spazi, della flessibilità degli orari e del luogo di lavoro esteso a tutti i dipendenti, compresi anche gli operai, che ha consentito all'azienda un grande recupero di produttività e al tempo stesso un miglioramento del clima aziendale, con risultati che le sono valsi anche il fatto di vincere un premio molto importante, che è il Best Place to Work a livello europeo. Quindi sono stati valutati come il miglior sito produttivo nel manifatturiero a livello europeo. Grazie Mariano Corso, buona serata. Grazie a lei, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.